vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 2 giugno il sole in regione è sorto alle 5.19 e tramonterà alle 20.52. Giovedì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli, i titoli. Api e impollinatori in pericolo, la fame il loro peggiore nemico con pesticidi, parassiti e cambiamento climatico. Il profumo struggente dei tigli, il titolo del corsivo di Licio Damiani che riproponiamo oggi. Evoca dolcezza l'ambrosia, pianta però aliena e invasiva, i consigli per tenerla sotto controllo. In cantina scopriamo i mezzi tecnici per facilitare l'estrazione dei pigmenti dell'uva. Alla scoperta dei castagni secolari, simbolo arboreo delle valli del Natisone. Aperitivo alla friulana con la salviade, ovvero le croccanti foglie di salvia fritte. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano. Lo scorso 20 maggio è stata la giornata mondiale delle api, è stata istituita quando si è capito come il declino di api e altri impollinatori stia modificando in peggio l'ecosistema in cui viviamo. Francesco Nazzi, professore di entomologia dell'Ateneo del Friuli, quanto è grave l'allarme intorno alla riduzione degli impollinatori? L'allarme è senz'altro piuttosto serio, perché una larga parte delle specie di api selvatiche sono a rischio di estinzione e le api domestiche, intendo l'ape da miele, che pure non è a rischio, anzi le cui popolazioni in termini di colonie aumentano, sembra godere di una discreta salute, ma solo perché gli apicoltori stanno facendo uno sforzo che si fa fatica a descrivere per mantenere questa popolazione. Quali sono gli scenari che abbiamo di fronte se non si riuscirà ad agire? I scenari non sono rosei, perché in effetti da questi animali dipende l'impollinazione di tutte le piante con il fiore e quindi la maggior parte delle piante che formano la flora spontanea, ma soprattutto anche tre quarti delle piante che ci danno il cibo che mangiamo. Di conseguenza diciamo che gli impollinatori c'entrano con circa un terzo di quello che arriva sulla nostra tavola. Ecco, pensiamo alle api, ma non sono loro gli unici impollinatori. Quali sono gli altri? Dunque, ci sono molti animali che fanno gli impollinatori, dai pipistrelli ai colibrì. Però effettivamente gli insetti hanno un ruolo principale, tra gli insetti le api, dove per api intendiamo un gruppo molto composito che comprende 20.000 specie di animaletti. Solo nella nostra regione abbiamo 700-800 specie diverse di api. L'imputato numero uno restano i pesticidi e la varroa, che è un parassita. Altri nemici ci sono, il cambiamento climatico forse? Il problema è un problema, noi diciamo, multifattoriale, che dipende da tante cause, l'importante delle quali dipende dai contesti. Io dovessi fare una graduatoria di chi è il più cattivo, al giorno d'oggi direi che le condizioni dell'ambiente in cui vivono le api è senz'altro la questione più problematica, poiché le api stentano a trovare nella campagna così trasformata com'è adesso alimento per sé e per la loro covata. Poco da mangiare per le api, c'è una questione di gestione dei campi incolti in agricoltura? Sì, c'è un problema, nel senso che è proprio dagli incolti che le api in un ambiente agrario ricavano ciò che serve loro per mangiare, e dunque sarebbe folle pensare di spazzare via tutti questi incolti. In pratica da questi incolti dipende la produzione, dunque per spazzare via anche quel residuo 4% di incolti rischiamo di perdere il 10% della produzione, e ciò è senz'altro assurdo. Come si muove l'Università di Udine nel campo della ricerca? Noi siamo molto impegnati in questo campo da che c'è l'università. Nell'ambito della ricerca, noi, per quanto riguarda l'ape da miele, noi siamo da sempre impegnati sulla salute delle api per offrire soluzioni e anche indicazioni a chi, per esempio, deve preoccuparsi di decidere se una sostanza è sicura per le api oppure no, oppure per capire in che misura un virus può influenzare il decorso della vita di una colonia. State anche lavorando nell'ambito di progetti che sono finanziati dal PNRR. Con questi soldi stiamo svolgendo un progetto che riguarda gli effetti del cambiamento climatico sulle api selvatiche. Campioniamo e studiamo le api nel loro rapporto con la vegetazione a diverse quote, e poiché cambiando la quota cambiano le temperature, noi in questo modo speriamo di riuscire a prevedere ciò che potrebbe accadere alle api se la temperatura continuerà a crescere come stiamo osservando. Professor Nazzi, cosa possiamo fare tutti nel nostro orto, giardino, sul balcone di casa? La prima cosa che possiamo fare tutti noi è informarci. Io suggerirei nel proprio giardino almeno di astenersi dall'usare sostanze per proteggersi da insetti di poco conto e quindi mantenere un ambiente sano per sé e per gli insetti. Se poi volete aggiungere un po' di fiori, tanto di guadagnato, se avete un giardino lasciate perdere il prato inglese e sfalciate di meno l'erba del prato. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei campi, storie, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi riproponiamo Il profumo struggente dei tigli, in onda il 15 giugno 1997. In questi giorni l'aria porta un profumo intenso e dolcissimo, è il profumo incantato dei tigli che cominciano a fiorire diminutissimi grappoli, profumo di grazia ammaliante, di dolcezza femminea. In tutte le mitologie il tiglio è pianta femminile per eccellenza. In greco filira è il nome di quest'albero dalla verde chioma rotonda e opulenta che oggi ingentilisce i viali della città e i piazzali delle stazioni ferroviarie. Per il viaggiatore affacciato al finestrino del treno è un piacevole abbandono lasciarsi avvolgere dall'abbraccio caldo degli aromi liberati nel sole. Filira era il nome di una ninfa, figlia di Oceano, che concepì da Cronos, unitosi a lei, sotto apparenze equine, un figlio metà uomo e metà cavallo. Era il centauro Chirone, divenuto famoso guaritore, in virtù del potere ereditato dalla madre, la quale tuttavia, per la vergogna di avere un figlio tanto mostruoso, chiese di essere mutata nell'albero che portò il suo nome. L'uso delle proprietà medicamentose dei fiori di tiglio venne fatto risalire ai tempi del dio Cronos, all'età dell'oro. Le infiorescenze hanno virtù calmanti, vasodilatatorie, antispasmodiche, emollienti nei raffreddori. Secondo un'altra leggenda, due contadini poverissimi, Filemone e la moglie Bauci, furono i soli ad accogliere nella loro capanna Zeus ed Hermes, che percorrevano la terra. Gli dei, riconoscenti, li preservarono dal diluvio, con cui sterminarono gli altri abitanti inospitali. La coppia chiese di poter finire insieme la vita in vecchiaia. Quando il loro tempo fu compiuto, Zeus ed Hermes trasformarono Filemone in quercia, tipico albero maschile, e Bauci in tiglio. In ricordo di questa delicata storia d'amore e di fedeltà agli dei, il fiore del tiglio divenne il simbolo dell'amore coniugale, ma forse proprio per il suo profumo malioso e conturbante assunse anche dei significati erotici. Orazio cantò le corone intrecciate di fronde di tiglio che ornavano il capo dei convitati nei banchetti sontuosi. Nel Medioevo la pianta fu assai cara ai poeti d'amore in Germania e nel nord della Francia. Ricordate la foglia di tiglio che, posatasi sulle spalle di Sigfrido, gli impedì di rendere invulnerabile completamente il corpo bagnato nel sangue del drago ucciso. Quella piccola traccia di femminilità fu fatale all'eroe dell'epoca nibelungica, chinatosi a bere alla fonte, dove venne colpito a tradimento da Hagen, il trucere burgundo. I tigli ombreggiano spesso fontane e pozzi. Nel cortile delle milizie del castello di Villalta, un vecchio tiglio abbassa l'intreccio di rami su un pozzo di foggia veneziana. Da metà giugno ai primi di luglio, il suo profumo alleva, fino alle torri merlate, un sentore di lontane favole cortesi. Nella rubrica del bio, Cristina Micheloni ci racconta di una pianta aliena dal nome dolcissimo. Già qualche anno fa abbiamo affrontato il tema dell'ambrosia, non il nettare divino, ma quella pianta erbacea che da qualche decennio ha velocemente popolato terreni incolti, spazi ruderali, bordi strada e ferrovia, spesso i nostri orti, giardini e campi, se il terreno non è proprio ben strutturato e dotato di sostanza organica. L'ambrosia è arrivata accidentalmente in Europa dalle Americhe e oggi considerata in Europa una delle specie alloctone più invasive e pericolose per gli impatti negativi su biodiversità, agricoltura e salute. Il pericolo per la salute umana è legato alle allergie da polline. Considerate che ogni pianta ne produce fino a 1 miliardo di grani, da qui le ordinanze che invitano caldamente allo sfalcio prima della fioritura. Prima di passare ai consigli per tenerla sotto controllo, alcune considerazioni. La sua rapida espansione è legata non solo al fatto di non aver avuto inizialmente nessun nemico naturale, nel senso che non se la mangia nessun erbivoro e gli insetti che se ne cibano sono comparsi di recente, ma anche al fatto che il riscaldamento globale ne ha favorito la produzione di polline. Più CO2 nell'atmosfera, più polline. È quel che si dice una specie aliena, che come altre trova impreparati non solo noi umani ma anche le altre specie, da cui danni a biodiversità e agricoltura. Si trova a suo agio su terreni maltrattati, ovvero con poca sostanza organica, ricchi di scheletro, magari da cantiere, compattati. Quindi ci prendiamo cura dei terreni, pigliamo due piccioni con una fava. Aliena è la specie vegetale, ma parimenti alieni sono gli insetti che se ne alimentano, ovvero il coleottero o frella comune e l'epidotero Aconcia condefacta. Il secondo è arrivato da qualche anno anche nella nostra regione dai Balcani. Strano giro, ma spiegabile con il fatto che era stata introdotta in Russia proprio per contrastare l'ambrosia e da lì ha viaggiato seguendola. Non un caso però nemmeno che tra i primi rinvenimenti locali ci siano i pressi dell'aeroporto di Ronchi, tanto per completezza o frella comune invece è verosimilmente atterrata a Malpensa. Dopo le premesse, che facciamo con la brosia che ci troviamo in giardino o nel campo? Mettiamo in atto una strategia composta da più elementi. Come al solito nei sistemi ecologici non esiste la bacchetta magica. Quindi, discatura o altra lavorazione superficiale ripetuta durante la stagione, in modo da portare alla luce le radici. Facciamatura con materiali vegetali, non passa la luce, l'ambrosia non cresce. Seminare qualcosa che sia un buon antagonista, come panico, erba medica, trifoglio, può essere come trifoglio, come coltura consociata. Già che ci siamo, apporta un sacco di altri benefici. Migliorare il terreno con sostanza organica ed evitare di costiparlo calpestandolo. In questo modo si favoriscono le altre essenze a scapito dell'ambrosia. Se non riuscite a fare altro, almeno sfalciatela prima della fioritura, ma sappiate che ricaccia. Lasciate lavorare Ofrella comuna e Aconcia candefacta, il che significa no erbicidi né insetticidi. Con Roberto Zironi, docente dell'Università di Udine, parliamo di vino e di gestione del processo di macerazione. In funzione della qualità dell'uva e del suo stato di maturità, l'enologo dispone di molti mezzi tecnici per facilitare l'estrazione dei pigmenti. Se l'uva presenta una maturità tecnologica, fenolica e cellulare ottimale, i processi di estrazione di composti fenolici sono relativamente semplici e puntano a raggiungere, oltre che ad un determinato colore, un equilibrio tra i tannini dei semi e delle bucce. Con una buona maturità cellulare si utilizzano prevalentemente i fenomeni osmotici, in quanto la maggiore concentrazione di sostanze utili nelle parti solide ne facilita la diffusione nel mosto. Se queste condizioni ottimali non sono soddisfatte, il tecnico deve intervenire per correggere il carente equilibrio compositivo. Si potrà modificare la durata della macerazione, le modalità e la frequenza dei rimontaggi delle follature, provocando una diversa solubilizzazione di ossigeno, l'inoculo di lieviti selezionati, stimolerà la fermentazione e regolerà la temperatura di macerazione. L'aggiunta di estraenti quali gli enzimi acerativi, l'anidride solforoso e il calore faciliterà la diffusione dei composti dalle parti solide. Con uve sane ricche di antociani, facilmente estraibili, una piccola aggiunta di anidride solforoso permette una macerazione prefermentativa. Con antociani meno facilmente estraibili, l'aggiunta di anidride solforoso dovrà essere maggiore. Anche gli enzimi acerativi aumentano sensibilmente la velocità di estrazione, ma non sono utilizzabili se le bucce hanno caratteri vegetali. Si può inoltre ottenere nel vino una maggiore concentrazione in soluti modificando il rapporto succo-parti solide per salasso o eliminazione dell'acqua. Se i vinaccioli sono ricchi di tannini, per evitare uno squilibrio tannico nei vini, dopo la metà o la fine della fermentazione i rimontaggi devono essere effettuati con precauzione, il contrario in caso di semi poveri di tannini. Infine, nelle uve poco mature ed attaccate da botticinerea, gli antociani sono in parte degradati ad opera della laccasi e la loro macerazione, in assenza di adeguate tecnologie, non è possibile. Per ottenere un vino colorato, equilibrato, morbido, non aggressivo, deve essere favorita prevalentemente l'estrazione dei tannini dalle bucce. A tale scopo si può utilizzare la macerazione prefermentativa ed un numero limitato di rimontaggi, effettuati soprattutto all'inizio della macerazione. La macerazione sarà breve e condotta a temperature inferiori ai 30 gradi. Al contrario, se si vuole elaborare un vino da invecchiamento, la struttura tannica dovrà prevedere sia tannini dei semi che delle bucce. La temperatura più elevata di fermentazione e di macerazione post-fermentativa e la reazione favoriscono la modifica delle strutture molecolari dei composti fenolici e il loro impatto gustativo. Per uve in perfetta maturità si possono applicare anche macerazioni lunghe, di 3-4 settimane. I tempi dovranno essere diminuiti per maturità insufficienti, per evitare i caratteri vegetali ed in caso di surmaturazione pronunciata, per limitare la durezza dei tannini e dei semi. L'ispettore della forestale Dario Di Gallo, per la rubrica dei grandi alberi, oggi ci porta nelle valli del Natisone e tra i suoi castagni. Le valli del Natisone possiedono due specie arboree che rappresentano al meglio il paesaggio delle valli, la betulla ed il castagno. Oggi tratteremo il castagno, proveniente attraverso la Grecia dall'Asia Minore, intorno al II secolo a.C., è pianta a tutti noi estremamente familiare, in quanto per secoli ha sorretto, come nessun altro albero, la nostra civiltà contadina, il legno incorruttibile, i preziosi frutti e il delizioso miele dai vistosi fiori, valori fondamentali. Non a caso veniva definito albero del pane, in quanto dai suoi unici ed aromatici frutti si ricavavano gli amidi che completavano l'alimentazione umana nelle valli, riuscendo a sostituire il frumento ed il mais negli anni di carestia, popolazioni che per gli alimenti proteici utilizzavano il latte e la carne provenienti dal fieno, altra essenza produttiva di questi luoghi che fino a qualche decennio fa serviva a sfamare gli animali del pascolo. Ancora oggi possiamo ammirare in queste boscose valli le vestigia degli antichi castagneti da frutto, coltivazioni di alberi di grandi dimensioni, ben spaziate e dal fondo curato e sfalciato per favorire la raccolta dei preziosi frutti, ed oggi avvolti da un folto bosco di recente formazione. Di questi esemplari permangono ancora alcuni esemplari monumentali, anche facilmente visitabili, a Pegliano, Malinska e Canalazzo, che hanno resistito alle malattie epidemiche causate dal fungo parassita responsabile del cancro del castagno, introdotto dal Nord America in Italia nel 1938 e che ha causato la distruzione di interi boschi. I nostri giganti sono celebri anche per la loro longevità, in contrasto con un aspetto esteriore molto spesso vetusto e provato dai segni del tempo, raggiungendo anche nei nostri esemplari i 300-400 anni, con una circonferenza che nell'esemplare di Canalazzo raggiunge i 9 metri. La loro altezza non supera mai i 20-25. Le crive pete e gli scradi, leggendari abitatori del bosco, sorvegliano questi grandi alberi delle valli. Aperitivo alla friulana con la profumata salviade, ci spiega come prepararla Roberto Zottar. Ad un pranzo, in un ristorante con un bel giardinetto a Cormons, tra gli antipasti, insieme ad un calice di vino frizzante fresco, metodo classico, mi è stata servita anche quella che chiamavano una sardella di Cormons. In effetti, alla vista era proprio una sarda impanata, bella, cicciotta e croccante, squisita al palato, ma all'assaggio non era pesce. Era una profumatissima e grande foglia di salvia impanata, forse con doppia appanatura. Il ristoratore, anche con un tocco di simpatico humor, aveva quindi riscoperto un'antica preparazione friulana, la salviade. Dire salvia è sinonimo di benessere, conosciuta dai tempi più remoti e apprezzata per le sue proprietà fitoterapiche, nel suo nome è contenuta la sua funzione, che è appunto quella di salvare dai disturbi di salute più comuni. I Galli ritenevano che la salvia potesse guarire tutte le malattie e che aiutasse a debellare la febbre e tosse. I Romani la consideravano un'erba sacra e la raccoglievano con particolari cerimonie, e nel Medioevo era usata come cicatrizzante. La salvia, detta officinalis per le sue funzioni curative, svolge infatti una funzione antibatterica e disinfettante per via dei tannini e acido rosmarinico. Inoltre questa pianta è utile anche nei casi di asma e nelle patologie dell'apparato respiratorio. Ipoglicemizzante e diuretica, favorisce anche la digestione. In cucina si utilizzano le foglie fresche o essiccate, principalmente per dare sapore a soffritti, sughi e salse e per rendere più gustosi contorni di verdura e secondi piatti a base di legumi o carne. Il sapore della salvia nelle ricette si sposa molto bene con il fegato, i saltimbocca, ma anche con la zucca, i funghi, la verza e i fagioli. Particolarmente diffuso è il condimento per i ravioli o gli gnocchi, ottenuto fondendo del burro con foglie fresche di salvia fino a rendere croccanti. Le foglie della varietà Salvia Maxima, che sono più grandi, sono le migliori per essere consumate fritte per la salviade friulana. Seguendo la ricetta un po' innovativa di un altro ristorante stellato di Cormons, vicino alla chiesa della Subida, fate una pastella stemperando farina di riso con un pizzico di sale e o acqua frizzante fredda, o un albume montato a neve, o birra freddissima. Prendete delle foglie di salvia grandi e avvolgetele su un pezzetto di formaggio montasio giovane. Passate nella pastella e friggetele in olio caldo. Servitele calde come uno splendido stuzzichino fondente da abbinare all'aperitivo prima di un pranzo importante. Buon appetito! Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 22,10 e 22,30 euro il quintale IVA esclusa, la soia tra 49 e 49,50. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 1,20 euro il quintale e la soia aumentata di 5 euro. Andamento stazionario nel comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,80 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,60 e 3,20. Prezzi in lieve movimento invece nel settore dei vitelli da ristallo, con i bluebell gamaschi che vengono quotati fra 6,60 e 7,20 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 4,80 e 5,40, i frisoni tra 2 e 2,20, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Operazioni in lieve calo nel comparto dei suini, con i lattongioli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,79 euro il chilo IVA esclusa, invece i grassi da macello si quotano a 1,88. Nel comparto dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone Udine ha recentemente determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo fra 48,50 e 51 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. La temperatura media del mese di maggio è stata complessivamente nella norma, seppur con notevoli oscillazioni, rispecchiando valori tipici del mese di maggio. In tutto il mese non abbiamo mai raggiunto i 30 gradi e solo alcuni giorni abbiamo toccato i 27-28 gradi, mentre la temperatura media del mare a Trieste è andata ancora un grado e mezzo oltre la norma. I terreni in pianura a fine mese sono ancora diffusamente intrisi d'acqua. Infatti il tempo nelle ultime due settimane è stato caratterizzato da grande variabilità. Si sono succeduti molti fronti atlantici e alcune depressioni che hanno portato piogge diffuse e insistenti, a volte anche molto intense sulla regione, seppur alternate a qualche giornata di tempo migliore. Il numero di giornate di pioggia nel mese sono state superiori alla norma, 12 o 13 giornate in pianura, 15-17 in montagna e fino a 22 sulle prealpi carniche. Nel mese si sono verificati ben 3 giorni di scirocco con condizioni quasi autunnali. Ricordiamo solo alcuni episodi delle ultime due settimane. Il 16 maggio sono accaduti oltre 100 mm di pioggia in 24 ore su tutta la fascia occidentale della regione, con una punta di 140 mm a Sesto Laregane e allagamenti importanti in pianura. Il 30 sono caduti oltre 80 mm a Muggia, il 31 maggio oltre 100 mm in 3 ore a Lignano. In sintesi, il maggio 2024 ha avuto piovosità da record in molte zone, sia per il numero di giorni di pioggia che per le piogge totali accumulate, che in varie zone di pianura, specie occidentale, hanno superato i 300 mm e in alcune zone prealpine anche i 500 mm. Torniamo alle previsioni per i prossimi giorni. La depressione si è spostata verso la Slovacchia, mentre un'altra si avvicina dalla Francia, ma la sua traiettoria non è ben definita. Sulla regione, in quota, affluiscono correnti da sud, che lunedì gireranno da est e permarranno condizioni di instabilità. Fino a mercoledì permarranno condizioni di variabilità, con probabili rovesci sparsi e piogge in genere debole o localmente moderate. Saranno probabili anche dei temporali e forse qualche isolato temporale più forte. Le temperature rimarranno sotto i 25 gradi. Da giovedì sul Mediterraneo si instaurerà un promontorio anticiclonico che manterrà tempo più stabile e soleggiato su pianura e costa, con temperature in aumento, mentre in montagna avremo la solita instabilità pomeridiana. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Barnabà la uva in flore va, ovvero per il giorno di San Barnabà, l'11 giugno, fiorisce la vite. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino, Lillo Montalto, Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?